Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Qualcosa ed è il nuovo libro di Chiara Gamberale, un libro particolare pubblicato da Longanesi perché è un libro illustrato, ci sono le illustrazioni di Tuono Pettinato ed è una favola. Una favola possiamo dire sì per adulti, ma che in realtà può essere letta anche dai ragazzini, magari ecco a più livelli di interpretazione e di comprensione. Devo dire che negli ultimi anni molti scrittori si stanno misurando un po' con la struttura proprio della favola per esprimere delle cose che vogliono appunto raccontare. Tu, Chiara Gamberale, perché hai deciso di raccontare questa favola? L'ho deciso, intanto io credo di averlo deciso tanti anni fa, perché io quasi subito a 7 anni ho capito che leggere mi avrebbe salvato la vita, a 8 anni ho cominciato a scrivere e verso i 16 ho scoperto Calvino, ma l'ho scoperto davvero, prima ci eravamo incontrati fugacemente, e da lì ho cominciato a sognare, ed ho certo che un giorno sarebbe bello scrivere qualcosa che avesse, che abbia la grazia della fiaba, però poi la profondità di un romanzo come gli altri, cioè portare le ossessioni, le paure che mi interessa scandagliare, però in un mondo tutto immaginato da me, tutto creato da me. E quindi era arrivato il momento e anche perché chi conosce i miei romanzi, tu insomma sei sempre stata la prima a battezzarli, diciamo li hai battezzati tutti. È vero. Tu sai che in tutti i miei romanzi i personaggi lottano col hanno pieno e col vuoto. Dolore, hanno sempre un buco nel cuore, dico a caso, perché effettivamente in questa favola io ho ritrovato diversi temi appunto a te cari, appunto il vuoto, la necessità anche dare il senso alla vita, alla morte, la volontà di vivere, ma di vivere in un determinato modo, il desiderio anche di farsi vedere, cioè di farsi riconoscere, non di farsi vedere in modo estetico, ma di farsi riconoscere dagli altri, la necessità del riconoscimento. E dicevo, il buco non è una parola a caso, perché la protagonista, diciamo, di questa storia è una bambina, è una principessa, come succede sempre nelle storie, e figlia del re che si chiama Qualcuno di Importante e della regina che si chiama Una di Noi. Lei, questa bambina, ha un nome particolare, Qualcosa di Troppo. Perché? Qualcosa di Troppo, ecco, lo dicevo perché appunto in un mondo in cui ho immaginato tutto, ho immaginato un regno e anche i nomi andavano immaginati. Quindi lei è figlia di qualcuno di importante, di Una di Noi, ed è Qualcosa di Troppo perché fin dalla nascita sente questa urgenza di vivere, ecco. Lei vuole tanto. Vuole tutto, e lo leggo proprio dalle vignette che ci siamo, chiamiamolo così, che ci sono, dalle illustrazioni che ci sono nel libro. Vuole troppo, cioè è una bambina che vuole fare. Perché? Perché come tutte le persone con un'interiorità ingombrante non riesce a stare ferma, perché se stesse ferma dovrebbe contattare tutto il pieno ma anche tutto il vuoto che ha dentro di sé. E la prima parte del romanzo è dedicata al dolore e la seconda all'amore, perché io credo che siano le due esperienze fondamentali perché un essere umano possa scoprire se stesso o continuare a nascondersi da se stesso. Infatti, a proposito del buco nel cuore che dicevamo prima, il dolore con il quale Qualcosa di Troppo si deve misurare è la morte della mamma. Lei lo descrive proprio come un buco, un vuoto che si viene a creare nel suo cuore. È bellissima anche la copertina perché indica in qualche modo l'ingresso in qualcosa di rosso. Poi ognuno ci immagina quello che vuole. E lei cerca di superare a questo punto questo vuoto riempendolo di cose, perché lei vuole evocare, diciamo, il ritorno della madre, e lo fa in un modo particolare, anche consigliata da una persona che incontra. Ci vuoi raccontare? Inizialmente sbaglia, come sbagliamo tutti quando stiamo male, perché piange. Vorrebbe non sentirlo più quel dolore, vorrebbe liberarsene, e invece scopre che i buchi che abbiamo nel cuore, questo è uno, diciamo, dei motivi per me più importanti di questo romanzo, scopre che non dobbiamo né affezionarci troppo a quei buchi, perché sennò rischiamo di identificare tutto noi stessi con quel dolore, con quell'esperienza negativa, però nemmeno esorcizzarli riempiendoli così in maniera impropria. Bisogna farci pace. E se non che lei è incapace di farlo, perché per sua stessa natura è abituata ad agitarsi laddove sente troppo, incontra il cavalier niente. Che cavalier l'altro... niente è meraviglioso. La principessa qualcosa di troppo e il cavalier niente. Ecco, la metafora mi sembra molto esplicita a questo punto. Ed è bellissimo perché il cavalier niente cerca di... aiutarla a capire come superare questo dolore, anche se non ha percepito esattamente di che dolore si tratta. A un certo punto, quindi, a proposito del buco nel cuore, le dice: quindi non lo odiare il tuo buco, accarezzalo ogni tanto, ma non ti ci affezionare troppo, altrimenti non passerà mai. È così che succede nella vita. Sì, sì. E poi prosegue, dice: se tu lo accetterai, quel buco si trasformerà in un passaggio segreto, perché i buchi che abbiamo nel cuore fanno così. Ed è verissimo, i nostri dolori, se li affrontiamo e non li subiamo, io sono sicura che soprattutto le perdite delle persone che amiamo, c'è un modo poi per far sì, appunto, proprio l'immagine per me, poi lavorare per immagini, perché io mentre scrivevo questo romanzo già pensavo alle illustrazioni che avrebbero potuto accompagnarlo. Ti dà molta ispirazione, perché questa immagine del buco nel cuore, quindi del dolore che si trasforma in un passaggio segreto per entrare in un nuovo contatto con la persona che non c'è più, che non è un contatto esoterico o è proprio un contatto personale, reale, intimo, è proprio almeno a me è successo così. Le persone che per un motivo o per un altro ho abbandonato, mi hanno abbandonata, io davvero le sento dentro di me, non si può dire che non le ho perse. Ecco, certo, questo cuore mio è pieno di passaggi segreti, di tunnel, di cose, però la scrittura, diciamo, ha a che fare anche con quelli. Ma sì, ma poi credo che, insomma, superata una certa età, ognuno di noi si porta tante cicatrici, tanti buchi nel cuore rattoppati più o meno alla meno peggio. Qualcuno si è trasformato appunto in passaggio segreto, come dici tu, e quindi permette di ritrovare delle cose belle. Ecco, secondo me, io le persone più pericolose che io conosco sono le persone che invece consegnano agli altri il compito di riparare i loro buchi. Quindi secondo me l'età non è molto importante. Io ho incontrato anche persone di 50-60 anni che si consegnavano agli altri con le loro mancate elaborazioni. Tant'è che la seconda parte, non a caso, del romanzo è dedicata all'amore. All'amore, ed è una parte, insomma, in cui è vero, c'è la ricerca dell'amore, c'è la scoperta anche in alcuni casi dell'amore, ma c'è anche quasi una critica sociale, nel senso che tu in questo regno immagini la presenza di smorfia libro. Vabbè, va da sé che stiamo parlando di Facebook, perché tutti questi ragazzini che si chiamano i ragazzini abbastanza, cioè quelli che sì, sono abbastanza noioso, sono abbastanza felice, né di qua né di non là, hanno insomma, problemi di incontinenza, esattamente come invece qualcosa di troppo, loro espongono un lenzuolo alla finestra con la loro immagine e si immagina questo regno dove ogni mattina magari dicono cosa pensano, come si sentono, esattamente Facebook. È una tua critica, sì, insomma, molto... questo social. Ma guarda, allora, io senza dubbio l'incontro fra la principessa qualcosa di troppo e il cavalier niente segna la possibilità per ognuno di noi di fare pace col vuoto che abbiamo dentro anziché litigarci. La società in cui viviamo, io credo che apparentemente ci offre tanti modi per fare pace con quel vuoto, ma non sono dei modi per fare pace con quel vuoto, sono dei modi per rimandare l'appuntamento. Io sono molto preoccupata, io non ho figli, ma sono preoccupata dei ragazzi di oggi, dei bambini, perché comunque fanno tantissime attività. Mentre io, a me, prima che quando uscivo da scuola alle 4 mi parcheggiavano dal portiere, perché mia mamma doveva uscire dalla banca, venirmi a prendere. Quelle 2 ore io dal portiere lì a fare i compiti mi annoiavo, avevo paura che la mamma non tornasse, ero in contatto con dei sentimenti senza i quali io credo che non avrei mai avuto modo, ad esempio, di scoprire chi ero e che da grande volevo fare la scrittrice, per dire. E invece oggi fai un sacco di cose, danza, pianoforte, cose, dopodiché a 11 anni ti piazzano in mano il cellulare e quindi stai in contatto con tutto tranne che con te stesso. E io penso che siamo a un punto in cui, cioè, la demenza ci cammina molto al fianco. Non so, ma io vedo proprio i miei amici, io poi mi difendo così, adesso siamo in radio, non si può vedere, ma ho un vecchio Nokia. Un vecchio telefonino, insomma, non di quelli smartphone. Perché faccio così? Perché sono una persona compulsiva e ho paura di cadere lì dentro, dove io credo che come tutte le cose, finché lo usiamo noi è un mezzo straordinario. Quando però cadiamo lì dentro con le nostre impotenze, le nostre incapacità di relazionarci con noi stessi, tutto viene amplificato naturalmente. A proposito della noia, ci sono molte ricerche ormai ultimamente di psicologi dell'età evolutiva che dicono che bisogna rivalutare la noia del bambino, perché la noia in realtà è uno spazio in cui poi si sviluppa la fantasia, la creatività, il desiderio, insomma si sperimentano delle emozioni. La protagonista di questo romanzo, questa bambina qualcosa di troppo, a un certo punto scopre la noia e si trova quasi meravigliata di tutto ciò. Quindi è qualcosa, insomma, è uno spazio. E la noia diventa addirittura l'anticamera dell'immaginazione, no? Diventa addirittura, lo è, la possibilità per contattare appunto se stessa, ma scoprire, paradossalmente proprio annoiandosi, scopre il modo di divertirsi davvero, ma di divertirsi nel senso di il non fare, no? Il non primo fare. Incontro fra il cavalier niente e la principessa, qualcosa di troppo, lui dice: hai disturbato le cose importantissime che non stavo facendo, perché lui non fa, non e fa. Le insegna a non fare, e ovviamente la noia è il viatico. È bello perché viatico. Io ricordo il tuo libro per 10 minuti, no? In cui tu sì. invitavi per superare, cioè tu diciamo la protagonista del romanzo eccetera, per superare un grande dolore della sua vita, ogni giorno doveva fare per 10 minuti un'attività che non aveva mai fatto prima. Invece qui c'è anche l'incontro con il non fare, che a volte è significativo nelle persone che sono nevroticamente concentrate sul fare. È moltissimo, tant'è che perfino la protagonista dei 10 minuti a un certo punto un giorno rimane in silenzio per 10 minuti, cosa per lei difficile perché appunto le mie protagoniste si somigliano tutte, un po' si tengono tutte un po' per mano, anche lei a proposito di incontinenza ha i suoi problemi. Però il non fare, a un certo punto il cavaliere niente dice: non sottovalutare il non fare, è un'attività che richiede molto impegno. È così, nel senso, io poi, tu lo sai, mi conosci, io quando ad esempio scrivo proprio mi isolo nel vero senso della parola, vado in isole fuori stagione, deserte, e non mi sento sola perché comunque appunto ci sono i personaggi con me e l'immaginazione ha modo di ecco, diciamo, si spezza la catena dei pensieri e arrivano le idee. Questo è possibile non facendo. Grazie a Chiara Gamberale per averci raccontato questo qualcosa. È un romanzo, una storia, una favola, chiamatela un po' come volete, sicuramente illustrata, questo lo possiamo dire, da Tuono Pettinato, ed è pubblicata da Longanesi. Grazie Chiara. Grazie. Una breve pausa e parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Si intitola I difetti fondamentali, l'ha scritto Luca Ricci ed è pubblicato da Rizzoli. L'arte del racconto al suo meglio. Vabbè, già lo so, adesso qualcuno inizierà a storcere il naso, perché quando nomino la parola racconti ci sono molti lettori che dicono: ah, a me i racconti non piacciono, preferisco il romanzo, eccetera. Luca Ricci, quindi sai di essere in una posizione scomoda oggi, tu che sei uno degli esponenti italiani del racconto. Forse l'unico, per quello poi il più bravo, perché sono da solo. E poi dice, non hai concorrenti. Esatto, cioè non è un libero mercato, il mercato fatto da un concorrente solo. Questa è una bella visione delle cose, sicuramente. A me invece i racconti piacciono molto. Mi è piaciuto il tuo libro e sono sicura che piacerà anche agli ascoltatori, perché poi bisogna andare un po' anche oltre quelli che sono i propri limiti e i propri pregiudizi. Questi racconti hanno un solo elemento in comune, forse, poi insomma andremo ad analizzarlo meglio, che è sostanzialmente il protagonista, cioè tu parli, sono 14 racconti che parlano di scrittori di diverso tipo, tant'è vero che c'è alla fine un elenco in cui vengono definite queste 14 tipologie di scrittori intorno ai quali tu hai creato delle storie. C'è il rottiano, il rifiutato, l'adultero, l'affittacamere, lo scomparso, il solitario, la canonizzata, insomma ci sono varie tipologie. Diciamo subito che questo è un libro che può essere letto da tutti e non è assolutamente per gli addetti ai lavori. Certo, magari noi ci facciamo qualche sghignazzata in più perché conosciamo determinati meccanismi, ma è una raccolta di romanzi per tutti. Sì, questa è la cosa che mi preme dire in assoluto di più rispetto ai difetti fondamentali, ovvero che un libro sì che parla di 14 scrittori, ma non è un libro autoreferenziale solo per gli addetti ai lavori, nella maniera più assoluta. Gli scrittori di cui si parla sono prima di tutto personaggi di storie, quindi totalmente inventati, immaginari, dentro storie di finzione, finzionali. In primo piano c'è una variazione narrativa potente e solo in seconda battuta, in secondo piano, arriva poi il gioco metaletterario, gli specchi, il citazionismo, l'esoterismo, il... Sì, diciamo che potrebbero non essere scrittori, perché comunque sono delle persone di cui tu descrivi ossessioni, manie, difetti, appunto, come dice lo stesso titolo. In questo caso di scrittori, ma potrebbe essere di qualsiasi altro essere umano. Beh sì, ad esempio, la cosa poi che si dice anche nel risvolto di copertina rilevante rispetto a questo è che si trattano termini universali, poi non solo letterari o per specializzati, ovvero il difetto fondamentale che viene poi descritto con più acredine, con più iperrealismo, con più abnegazione, è l'amore proprio, no? C'è un racconto, L'adultero, che è il terzo della serie, in cui appunto c'è uno scrittore vagamente ispirato alla storia di Bianciardi, dove c'è uno scrittore con la sua amante e lui, un po' per provocarla, un po' per così, ecco, pavoneggiarsi, inizia a decantare invece le gioie del sesso tra marito e moglie, mentre è insieme all'amante, e viene fuori appunto così che è un'aberrazione continuare a prendersi così, avere un sesso, una vita che prosegue nonostante si siano già fatti figli, nonostante appunto il compito di madre natura poi sia stato assolto. E però nella noia, si dice anche in quel racconto, alla fine non c'è più colpa, cioè quando subentra la noia in un rapporto vuol dire che quel rapporto è stato vissuto fino alla fine. Infatti questo racconto mi ha colpito perché a un certo punto tu scrivi a proposito dell'amante, diciamo quest'uomo sta appunto con l'amante e dice: so solo che con te non mi sento meno in prigione che con mia moglie ed è per questo che mi piaci. E c'è un altro momento in cui parla del sesso fra coniugi e tu scrivi: non era un sesso addomesticato, questo no, piuttosto un sesso compromesso, impossibile da compiersi, senza reale passione, ma proprio per questo più autentico del sesso appassionato. Questa è una caratteristica un po' di questi racconti, cioè il fatto che tu capovolgi un po' i piani o anche quelli che sono, come dire, luoghi comuni. Uno penserebbe: ah, il sesso nel matrimonio è una cosa noiosa e poco stuzzicante, e tu in questo racconto alla fine ribalti questa visione comune. Sì, tra l'altro appunto quello che è interessante è che anche da un punto di vista, diciamo, formale, strutturale, letterario, è un libro così, perché è un libro assolutamente fantastico e assolutamente realistico a seconda del punto di vista da cui lo si guarda, no? Non diresti che è realistico, e però non potresti dire che è neanche che è totalmente fantastico, no? È bella questo tentativo di tenere insieme due anime che di solito sono sempre andate distinte, come c'è il tentativo anche di tenere insieme due cose che il mercato recentemente, negli ultimi 20-30 anni, ha cercato di separare, ovvero la letteratura da una parte e l'intrattenimento dall'altra, mentre invece ogni grande opera di letteratura è sempre stata anche grande intrattenimento. Basta leggere Ionesco ad alta voce per rendersene conto, insomma, cioè divertirsi non è un peccato e non toglie niente alla letterarietà del testo, anzi. Questo mix appunto fra verosimile, fra realtà e fantastico, mettiamola così, è un po' una caratteristica in genere dei racconti. I racconti, proprio perché hanno una dimensione ridotta, devono a volte essere grotteschi, tranchant, devono appunto ribaltare i piani perché devono essere incisivi in qualche modo. Tu che sei appunto già uno scrittore di racconti, non è certo la prima volta che ti diletti con i racconti, come affronti proprio l'idea del racconto? Cioè, ti poni la questione: ok, a un certo punto devo fare qualcosa di sensazionale perché il racconto sia incisivo? Ma innanzitutto c'è una distinzione abbastanza elementare rispetto al romanzo, cioè lo scrittore di racconti sa che, siccome ha poche parole da maneggiare, tutte quelle parole saranno decisive. In questo senso ha un approccio quasi più da poeta che non da prosatore, e questa è la prima caratteristica indispensabile. La seconda caratteristica è che non c'è tempo per la noia, per cui uno scrittore di racconti, a differenza di un romanziere che può infischiarsene, è sempre costantemente, si chiede, soggiogato dalla domanda: sto annoiando oppure no? E parafrasando una famosa frase che Truffaut diceva per definire che cos'è il cinema, si potrebbe dire che il racconto è un romanzo senza le parti noiose. Questo è bellissimo, qua stai proprio, come dire, tirando l'acqua al tuo mulino. Sto provocando. Sì. Tornando un po' ai racconti, per esempio, ribaltamento dei piani, che è uno degli aspetti che mi ha colpito di più in questo libro. Abbiamo visto il ribaltamento dei piani, sesso coniugale, sesso con l'amante. Il rifiutato, uno dei racconti che veramente mi ha fatto impazzire, classico, diciamo, aspirante scrittore che telefona tutti i santi lunedì per mesi e mesi all'editor per chiedere: avete letto il mio libro? Avete letto il mio libro? Avete letto il mio libro? Inizialmente l'editor, giustamente, è infastidito da questa cosa, cioè inizia a provare anche una rabbia. Poi, quando all'improvviso il suo stalker, aspirante scrittore, non lo chiama più, inizia quasi a soffrire di questa mancanza. Anche qui hai ribaltato i piani. Sì, di quel racconto secondo me funziona molto bene appunto questo cambio repentino della temperatura emotiva, perché la prima parte, anzi tre quarti diciamo del racconto, sono tutti giocati tra questa partita a scacchi a distanza tra l'editor, che per chi non lo sapesse è la figura professionale che dentro una casa editrice, tra le altre cose, tra le altre mansioni, valuta i testi che provengono dall'esterno, e l'aspirante scrittore. Dopodiché c'è un ribaltamento anche psicologico, e chi doveva essere, diciamo, perseguitato diventa invece il persecutore. Sì, perché si sente proprio spiazzato, quindi questo hai voluto proprio creare questa sensazione. Sì, il libro è fatto tutto di questi cambi repentini di prospettive, se vuoi, no? Preparano un territorio per poi subito, a una manciata di righe prima della fine, toglierti, diciamo, il tappeto sotto i piedi. E infatti mi è venuto in mente uno dei racconti, Il solitario, dove c'è appunto quest'uomo scrittore, ovviamente anche lui, che si chiude in una stanza perché deve essere solo, perché lui riesce a creare, a scrivere solo da solo, e la moglie bussa costantemente a questa porta, e c'è questo dialogo, sono tutti dialoghi molto fitti, e lui non, insomma, non vuole farla entrare, finché un giorno lei diciamo fa passare più tempo fra una bussata e l'altra. E lui ne soffre, e lui inizia ad essere ossessionato dal pensiero che lei possa tornare a bussare, nel senso che desidera che lei torni. Esatto, è quello che si diceva prima nel racconto dell'adultero: alla fine le dipendenze ci danno piacere, tutto sommato. Sì, le dipendenze infatti ci danno piacere, e anche forse il senso di liberazione sembra capovolgersi quasi in sofferenza. Cioè l'editor che si toglie di mezzo, insomma, lo stalker, il marito scrittore che si toglie di mezzo la moglie, poi nel momento in cui, come dire, non hanno più, non sono più in gabbia, in realtà questa libertà fa paura. Sì, è proprio enunciato, ad esempio, questo confine labilissimo tra piacere e dispiacere, tra sofferenza e godimento, nel racconto L'eccitato, che ha un titolo significativo, dove proprio c'è uno scrittore ormai anziano che va in questo villaggio, che tra l'altro esiste, Cap d'Aye, nella costa francese sud-meridionale della Francia. Praticamente va nel villaggio per tentare, appunto così, di, in uno scoppio vitalistico, consumare l'ultimo giro di valzer concesso dalla vita, e però si rende conto che resta uno scrittore, resta un intellettuale anche in quel luogo selvatico dove ci si dovrebbe spogliare di tutto e restare nudi, proprio perché si incapriccia dell'unica donna che misteriosamente resta vestita, cioè resta in costume. Questo è un altro ribaltamento. Io ho avuto la sensazione che tu ti sia divertito moltissimo a scrivere questi racconti. La sensazione da lettore, almeno da lettrice, è questa. Chiaramente qualcuno potrebbe iniziare a fare il giochino: bah, chi sarà lo scrittore adultero, chi il suggestionabile, chi lo stregato, eccetera, ma questa è una cosa forse che interessa solo noi. Tu però dimmi la verità, ti sei preso qualche piccola soddisfazione, qualche piccola, non dico vendetta, ma veramente soddisfazione col sorriso nel descrivere qualche personaggio ispirandoti a qualcuno di... Ma ce ne sono pochissimi che hanno dei modelli che parzialmente potrebbero essere veri, ma non, presi dal vero ma non del tutto. No, più che altro c'è un discorso che effettivamente ricorre, non c'è satira dell'ambiente sociale, ci sono questi scrittori che vengono fuori e proprio vengono ritagliati, sagomati, e vengono fuori loro, come se ci fosse però anche il tentativo non solo appunto di sbeffeggiarli, ma anche di amarli e di restituire autorialità, preminenza alla figura dello scrittore, no? In questo senso, aggiungendo autorialità a quello che adesso invece tutto sommato è un ruolo sociale dello scrittore abbastanza infimo. Ora non mi ricordo più, un editoriale recente diceva: se lo scrittore è sul giornale è perché è morto, cioè nel senso che poi la parola che viene data agli scrittori, al di là delle promozioni dei libri che sono, certo, giuste, belle, sacrosante, vanno fatte, ha sprombattuto, eccetera eccetera, nella società, nel ruolo pubblico, nel dibattito pubblico, cioè ci sono i politici, ci sono i blogger, ci sono i VJ, ci sono i DJ, ci sono i cantanti, ci sono le popstar, ci sono le rockstar, e quindi questo invece è un tentativo di restituire anche importanza agli scrittori, perché la scrittura di magico, ricordiamocelo anche questo, qualsiasi sia la sua materia, la materia di cui si occupa, la mitizza. Grazie a Luca Ricci, ora in libreria con I difetti fondamentali, pubblicato da Rizzoli. L'abbiamo detto, è una raccolta di 14 racconti con protagonisti degli scrittori e personaggi assolutamente di fantasia, che in realtà sono esseri umani, con i loro difetti, con le loro ossessioni e con le loro manie. Grazie Luca Ricci. A voi. E grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Potete scaricarle anche dalla nostra app. Basta iscriversi, andare nella sezione podcast e segnare l'alert per quanto riguarda il Cacciatore di Libri. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.